per 40 anni è stato chiuso in un magazzino e adesso si può vedere, insomma, mi ha fatto molto piacere il vostro giudizio, si può vedere proprio il soffitto intero e quindi è molto emozionante. Poi altri luoghi che abbiamo analizzato, per esempio Venzone, lì si possono vedere due delle statue che stavano davanti al Duomo, anche lì sarà un'occasione unica perché poi sono talmente diciamo in condizioni precarie che si stanno predisponendo delle copie, quindi per vedere gli originali bisogna venire a Passariano. E poi tutte le altre cose di cui abbiamo parlato, insomma, noi abbiamo 19 stanze, quindi ci sono anche i documenti filmati dell'epoca, degli inviati Rai, non so, per esempio c'è un bel filmato di un giornalista molto noto, all'epoca meno noto, Bruno Vespa, si intitola Un inverno difficile, e racconta del fatto che le persone sono state costrette ad un esodo, quindi non avevano la casa e per tutto l'inverno hanno soggiornato a Grado, a Lignano, a Bibbione, insomma nei luoghi del litorale dove c'è la possibilità di ospitarli negli alberghi, no? Per esempio. E, ci sono filmati poi non solo quelli del giorno dopo, c'è quello di Minà, per esempio Gianni Minà, esatto. Un altro giornalista che è molto noto, poi alcuni che sono scomparsi, per esempio Paolo Fraiese, Giuseppe Marrazzo. È molto emozionante il fatto che proprio si vede il mestiere del giornalista nel momento della catastrofe, proprio Marrazzo lo si vede parlare durante un salvataggio di un ferito e lui con il faro che era a disposizione dell'operatore illumina questa scena perché altrimenti i vigili del fuoco ed altri non avevano proprio la possibilità, trattandosi di una scena notturna, di operare in maniera utile, ecco. Quindi c'era la vita vera, la storia di quello che è accaduto. Il dietro le quinte, insomma, è anche comunque diciamo l'intervento da parte della stampa che ebbe un peso, nel senso che ogni giorno, soprattutto anche il Messaggero, poi ogni giorno narravano, insomma, i progressi, ciò che, insomma, poi anche Radio Amatori, le prime radio, esatto. Che LT1, insomma, c'è stato un po' di con i mezzi limitati che c'erano all'epoca, insomma, tutti sono adoperati per dare una mano in qualche maniera, essere utili in qualche modo. Ma mi chiedevo una cosa: ci sono state già scolaresche da voi e se sì, quali reazioni hanno avuto a questa mostra? Ma le scolaresche il secondo quadrimestre si muovono poco, perché vengono tanti giovani. E c'è una grande curiosità, questo sì, perché non è che non si sia sentito parlare del terremoto, perché magari ognuno può avere i genitori, i parenti, qualcuno più grande di lui che ne parla, però ecco, il fatto di venire a Passariano dà una possibilità diversa, no? Proprio di rendersi conto direttamente anche con, come dicevate voi, gli strumenti che c'erano in quel momento, no? Per cui uno si rende conto del fatto che non c'erano telefonini, che non si potevano fare le fotografie, che era complicatissimo trasmettere tutte queste informazioni, questo riguardo proprio le prime stanze. E poi in realtà noi abbiamo costruito il nostro percorso proprio per dare più punti di vista, no? Quindi il punto di vista dell'arte, il punto di vista poi dell'architettura e poi la memoria individuale. Sembra interessante così che prima di noi quella persona abbia raccontato della sua esperienza, cioè, ascoltare come viene distorto il disco dei Pink Floyd è una cosa che poi uno ricollega, no? con la vita delle singole persone. È chiaro che fu un evento tragico, ci furono 1000 morti, però ci fu anche la possibilità di viverlo anche da parte di tutti quelli che poi hanno voluto essere presenti, hanno voluto aiutare, no? Quindi il mondo della solidarietà che si è mosso nelle tendopoli. Certo. Questo viene tutto prima del grande movimento che ha portato alla completa ricostruzione. E noi presentiamo alcuni simboli, abbiamo parlato di Via Amalteo, c'è anche un altro simbolo che è il castello di Colloredo, e abbiamo la possibilità di vedere una bifora che deve essere ancora ricostruita. Quindi, restituzioni avvenute, poi simbolicamente l'immagine del castello di Colloredo che deve essere ancora completato. Eh già, lo vedevo il cantiere quasi ogni giorno, visto che lavoravo per un periodo. Quindi, come un po' anche il Duomo di Venzone, ero bambino quando è successo e si percorreva quella strada per andare nelle zone di villeggiatura in montagna, insomma, si sa, quando si è bambini il tempo è molto più dilatato, no? E quindi sembrava questo un cantiere che non finisse mai. E così anche un po' Gemona, ovviamente, la stessa, sì, contare le pietre, numerarle e ricostruire un po' quindi il passato alla fine. E quindi niente, alla fine il tempo stringe e l'ora fatidica sta per giungere, quella delle 9, appunto. Così è stato 40 anni fa, proprio alle 9 qualche minuto, giù di lì, e quindi ci apprestiamo per finire questa trasmissione con un brano, lo dico già da subito, di Pink Floyd, appunto. Vorremmo in qualche maniera rimettere sul piatto, sperando che questa volta non accada veramente nulla. Dai, insomma. Ecco, vorremmo rimettere proprio il vinile. No, era, eccolo, diciamo, era una cosa che volevamo tenere alla fine, ma chi se ne frega, va bene anche così. Dall'album Wish You Were Here. Sì, era l'album Wish You Were Here, scusate. E da questo, a breve, insomma, allo scattare delle 9, ci ascolteremo questo vinile. Nel frattempo avremo ancora occasione di leggere due cose. Io intanto ringrazio quindi la sua disponibilità per questa chiacchierata e spero anche che chi ha avuto la possibilità di ascoltare la trasmissione possa essere quindi ora motivato a spingersi verso Codroipo, anzi Villa Manin di Passariano di Codroipo, per questa mostra che appunto durerà fino al 3 di luglio. Gli orari li abbiamo già detti, e altre cose se vuole aggiungere le dica subito, insomma, intanto c'è tempo. Beh, insomma, vi aspettiamo tutti quanti. I prezzi sono popolari, quindi il biglietto costa 5 euro. Sì. 3 euro biglietto ridotto, e vi aspettiamo perché questa è la nostra proposta, e quindi non vogliamo fare retorica e vogliamo che il dialogo con i visitatori proprio sia basato su quello che abbiamo detto prima, insomma. Quindi partiamo dall'evento, ma la nostra proposta è molto più ampia. Diamo i contatti, se, no? Chi volesse, che le informazioni a riguardo proprio l'ho trovato su info@villamanin.it, se no villamanin.it è il sito, e il numero di telefono è lo 0432 82 12 56. Quindi ci sono anche comunque gli sponsor da nominare. Sì, certo, infatti generosamente, oltre alla Fondazione Group che è il nostro sponsor abituale, c'è la Confindustria di Udine, in particolare i costruttori, poi abbiamo parlato del media partner che è il Messaggero Veneto, la RAI che ha collaborato per tutto quello che riguarda la parte, diciamo, audiovisiva, la curia arcivescovile di Udine che ci ha aiutato per avere tutte le opere ecclesiastiche, e poi una fila interminabile. Cioè, la mostra noi l'abbiamo fatta, noi siamo un'azienda speciale di Damanini insieme alla sovrintendenza delle arti e paesaggio, e poi altre sovrintendenze che hanno collaborato, per esempio la sovrintendenza archivistica della Sovrintendenza Giulia, l'Associazione dei Comuni Terremotati e dei Sindaci della Ricostruzione, l'Istituto Regionale del Patrimonio Culturale, poi c'è anche ci sono i filmati dell'Ufficio Stampa della Regione, i comuni, Gemona, Udine, Buia, Venzone, la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, la parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona, hanno lavorato più di 100 persone a questa mostra, quindi sarebbe un po' difficile ricordare tutti. In ogni caso, con me è stato Corrado Azzolini, il sovrintendente, a coordinare il lavoro di 25 persone, quindi abbiamo un catalogo edito da Schirà che si intitola appunto Memoria. Una cosa che posso dire è che può essere acquistato anche in edicola assieme al Messaggero Veneto. Ecco, questa è una cosa appunto bene da dire. Quindi fino adesso siete contenti di quello che avete realizzato? Sì, i risultati sono ottimi. Ecco, però vi aspettiamo così per allargare ancora di più il panorama dei nostri visitatori. Bene, e così magari anche diremo qualcosa di più anche per a settembre, no? Per la seconda puntata sul sisma del 76, che appunto verrà il 16 di settembre. E quindi io ritornerò, allora, visto che sono già stato stamattina, ritornerò più che volentieri a trovarvi ovviamente rinnovo l'invito anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie ancora per aver partecipato a questa seduta, questa chiacchierata con noi. Grazie a voi. Grazie, buona serata. A proposito della stampa, andiamo a ascoltare ancora una volta cosa ne dice Aldo Bernardis del Museo di Venzone. La stampa, che ha un ruolo stavolta fondamentale nel informare, d'accordo, ma anche nel formare la gente. Mai un gazzettino o un messaggero avrebbero parlato in maniera scientifica del terremoto. Non è il loro compito. Soprattutto il messaggero nella nostra zona, ma il gazzettino nella zona pordenonese, diventano portavoce del terremoto. Anche per tranquillizzare la gente, una, due uscite al giorno, non aspettavano neanche il giorno dopo magari per darti qualche notizia particolare, evoluzioni particolari riscosse, l'arrivo di Rockefeller, vicepresidente degli Stati Uniti, con i soldi raccolti dagli italiani emigrati in America, che sono 43 milioni di dollari, che nel 76 vuol dire circa 70 miliardi di lire, sono soldini, edizione straordinaria, è arrivato Rockefeller con i soldi, anche per tenere, proprio far vedere alla gente che qualcuno pensava a loro. Appunto, si parlava di stampa e questo era Aldo Bernardis, di nuovo del Museo di Venzone, che ho incontrato pochi giorni fa. E a proposito del Messaggero, invece, a proposito di stampa, come dicevo prima, chiaramente il Messaggero e il Gazzettino erano coloro che si occupavano maggiormente di informare noi tutti, vittime e non vittime comunque, di questa cruciale realtà, e il Messaggero ha voluto stampare oggi questo libro che raccoglie delle foto molto belle e anche degli articoli di quell'epoca, con un inedito anche del nostro poeta contemporaneo, appunto Pierluigi Cappello, e dal titolo Quando la terra tremò. il racconto inedito di Pierluigi Cappello, appunto, con anche altri giornalisti, uno che mi viene da subito da nominare qua è Paolo Medeossi, ma poi ce ne sono altri che trovate comunque lì al museo di a quello contemporaneo appunto di Villa Manin di Passariano, ovvero Ido Cibischino, dove intitola questo articolo così: la magnifica prova del Friuli. Mi rinfacciano certe anime in perenne agitazione nel frullatore globalizzato di essere esagerato, fondamentalista, una sorta di Furlan Taliban. Censurano per come salto su, levando lo scudo, ogni qualvolta mi toccano il Friuli e i friulani, quando avverto una fregatura, un raggiro, un'ingiustizia, una mancanza di rispetto nei confronti loro e della storia che hanno scritto e subito. Tanto peggio accade, purtroppo, se il fuoco è amico. Sono diventato così dopo aver conosciuto altri mondi, altre terre e altra gente, arrivando alla conclusione che non c'è paragone di bellezza, di nobiltà anche nelle sofferenze peggiori, di coraggio e onestà, di fiducia nelle proprie mani aduse ad ogni mestiere e a ogni opera quando sopra a indirizzarle c'è l'idea giusta da assimilare e condividere. Non importa quanto grandiosa o all'apparenza impossibile. Sono diventato così da testimone della magnifica prova che il Friuli ha dato di sé nei giorni e negli anni del terremoto che avrebbe schiantato qualsiasi altro popolo decretandone la diaspora e la fine. Nelle relazioni che cercano di spiegare la mancata possibile polverizzazione davanti all'accanirsi del sisma e di due emergenze estreme a distanza di 4 mesi e poi il prodigioso esito di una ricostruzione riuscita qui e non altrove, si elencano fattori oggettivi, diciamo tecnico-logistici, inoppugnabili eppure non sufficienti. Lo spazio di manovra concesso dalla stagione in cui avvenne il disastro, la massiccia presenza di militari per i primi soccorsi e per approntare gli insediamenti provvisori, l'uniformità dell'area colpita, fornita di buone vie di comunicazione, il ruolo di Udine, risparmiata come sede di coordinamento, la vicinanza della costa per assorbire l'arretramento dei profughi, pur aggiungendo lo sforzo solidale della nazione e l'aiuto internazionale, il quadro resterebbe opaco senza il fattore dominante. Dopo gli inevitabili momenti di paura e di sbandamento, le arterie dell'anima friulana pomparono tutta l'energia di un sangue antico, forte e ricco di anticorpi contro la pulsione della disperazione e della fuga. C'ero anch'io, nella tendopoli degli sfollati di Osopo, quel giorno, il 13 maggio, che da un gigantesco elicottero dell'aeronautica militare americana, bianco e azzurro, scese Rockefeller. Dicesi Nelson Rockefeller, il vicepresidente degli Stati Uniti, mica male. Le viscere dell'area pedemontana che smettevano di concentrarsi e veniva giù acqua che Dio la mandava. Il fango risucchiava le suole delle scarpe, ma Nelson, in completo grigio, avanzava come un marine, il volto teso e attento dietro gli occhiali appannati. Entrò nella tenda che sgocciolavano per l'umidità, abbracciò vecchiette, salutò gli anziani col cappello in mano. «Io vi conosco», disse. «Siete quelli muratori, terrazzieri e mosaicisti che sfidavano i latinos e gli irlandesi sui grattacieli di New York, lavoratori imbattibili di fatica e di ingegno. Qualche ora dopo, a Palazzo Belgrado, sede della provincia, c'ero, nel seguito tenuto d'occhio di un imponente apparato di sicurezza, quando, da una porta laterale che dava sul salone del Consiglio, sbucò Ciro Migliore, un caro collega malato d'Africa, come tornò per stabilirvi qualche anno dopo. I G-Men che attorniavano Rockefeller non ebbero il tempo di mettere la mano sotto la giacca che Ciro, notes e pena in vista, si parò dinanzi al vicepresidente. «Sono il cronista del giornale locale», si presentò in inglese tutto d'un fiato. Nelson gli mise un braccio attorno alla spalla e dettò: «Scrivi che sono impressionato dallo spirito di questa gente, che non perde tempo a commiserarsi e chiede soltanto i mezzi per ricostruire». La sera stessa partiva l'informativa per il presidente Gerald Ford e il definitivo ok del Congresso allo stanziamento di 25 milioni di dollari come primo fondo di solidarietà. Un piccolo piano Marshall per il Friuli che voleva rinascere. Ho ripreso in mano i giornali di quei giorni, alcuni titoli. 8 maggio, il Friuli colpito dal disastro, già al lavoro per costruire. 9 maggio, incubo e coraggio. Si rafforza la volontà di fare e non si incrina la fermezza dignitosa della gente. 10 maggio. C'era ancora paura, ma è più forte la volontà di ricostruire. 12 maggio. Altre 6 scosse. Non fermano comunque il moto di ripresa. E via così, per settimane e mesi, con sintesi che danno subito l'idea della lucidità e della lungimiranza di chi le ispirava, guidando una traiettoria dall'unico irrinunciabile punto d'arrivo. Un Friuli da rimettere in piedi, come prima, meglio di prima, secondo uno scadenzario implacabile. Quindi fabbriche, case, chiese. Vittorino Meloni, giornalmente il direttore, si confrontava con il commissario Giuseppe Zamberletti, il prefetto Domenico Spaziante, il presidente della regione Antonio Comelli, l'arcivescovo Alfredo Battisti coi parlamentari friulani. E questo poi il giornale, non solo informarono, si calarono in ruoli vitali di sostegno e stimolo, di incoraggiamento a tenere duro, a restare uniti, a dare un altro esempio alla nazione e al mondo che ci guardava. Dategli un capo credibile e una missione. I friulani vi stupiranno. Le più importanti firme nazionali e anche straniere li hanno raccontati. Esaurita la fase emozionale con tutte quelle storie incredibili che non avevano bisogno di ricami, gli inviati dei grandi giornali se ne andarono pieni di ammirazione. Restammo noi, giovani cronisti su un fronte sconosciuto, gli stessi che erano partiti per i primi quella notte. La scossa del 6 maggio mi aveva colto a casa, da una breve pausa, per la cena, prima dell'ultima fase al giornale, quella dell'impaginazione sui banconi della tipografia. «Devo andare», dissi a mia moglie, consegnandole nel giardinetto la bimba che avevo portato giù, barcollando sulle scale che ondeggiavano dalla cameretta di sopra. «Noi ti aspettiamo qui», sussurrò Ines. «Qui». Stava per la vetusta Nuth Prince, nella quale sistemò per la notte Lisa e Linda, le nostre figlie. Volle accompagnarmi Antonio Bazzano, il corrispondente di Cervignano che si trovava per caso al giornale. Risalimmo la Pontebana, impiazzita nell'oscurità, punteggiata di lampi bianchi e blu, e nell'aria un pulviscolo che tutto avvolgeva e sfocava. E fino a buia e le sue infinite borgate. Tornammo a notte fonda, in una redazione diventata accampamento, porte e finestre spalancate, un via vai di gente mai vista che si piazzava dietro le scrivanie, rubava con gli occhi le righe che si componevano sotto i nostri polpastrelli, furiosi e disperati. Riferimmo di morti, di macerie, di lacrime, ognuno recando una fetta di distruzione e di dolore che tuttavia non poteva ancora delineare l'immensità della catastrofe, rivelatasi soltanto il giorno dopo. Scrissi della pazzesca coincidenza annunciata dal cartellone ciondolante del cinema Tabeacco, dove il volto terrorizzato di una donna urlava il titolo del film che si sarebbe proiettato quella sera. «La città sarà distrutta all'alba». Scrissi di lacrime, penso le uniche di gioia all'interno del giornale. Quelle di Claudia, Alessio, mentre un pompiere le posava un braccio, il figlio appena tirato fuori, vivo. Dalla piramide di macerie, della casa battuta dopo 6 ore di scavo febbrile con le mani. Mentre Accanto, invece, la voce sempre più fioca della nonna lo invitava a pregare con lei. A 9 anni, Agostino aveva accettato l'idea della morte, prima di svenire nella nicchia protetta del divano rovesciato, sul quale gravavano tonnellate di detriti. Mi tornano quei morti, nei silenzi della montagna e nel buio dei sogni più che nei loro luoghi, oggi ricostruiti e pieni di nuova vita. Ne vidi una catasta nel cimitero di Magnano Riviera e sopra una donna in sottoveste rosa che il mostro aveva sorpreso nel sonno. Le nudità pietrificate da statua, i capelli come fili di ferro su un volto che non aveva fatto in tempo ad assumere espressioni. Mi vengono incontro i vivi, per tutti Dario Molaro, allora 22enne, su a Cesaris di Lusevera. Lui la morta l'ha fregato 2 volte. D'Alpino ci salvò per miracolo mentre tentava di soccorrere un graduato caduto in un crepaccio su Lussari durante un'esercitazione invernale. Quella notte i muri della casa gli scoppiarono attorno e fuggì come impazzito per il bosco. Si fermò al pensiero del nonno Giovanni, paralizzato e senza una gamba. Tornò indietro e lo tirò fuori. Buia divenne meta frequente delle mie ricognizioni, a maggior ragione l'11 di luglio, a 2 mesi dal sisma, quando a Urisini Spiccolo fu inaugurato il primo villaggio prefabbricato dell'intera zona terremotata. 14 casette più un ambulatorio e un centro servizi, frutto della sottoscrizione, 227 milioni di lire, promossa dal giornale di Brescia. «Ce la facciamo, ci rimettiamo in piedi», mi assicurò il sindaco Eddie Giacomini. Emotivò. Il Friuli è fatto di piccole comunità in cui coesione e rapporto diretto rinsaldano le sicurezze e la speranza, e segnali come questo dell'inaugurazione danno forza. Eravamo diventati amici, perché tali divennero per le assidue frequentazioni i sindaci dei comuni colpiti, uomini normali di pacifica e laboriosa quotidianità che un evento straordinario trasformò in eroici trascinatori, commissari straordinari nei loro paesi, come lo era Zamberletti, appunto, di cui il governo aveva attribuito poteri mai prima concessi, in pratica assumeva le funzioni di tutti i ministeri, e quindi mai concessi a livello supremo, in sinergia con la regione. Pareva in quei mesi d'estate, mentre prendeva corpo il piano prefabbricato, gli alpini giorno e notte ci davano dentro la cazzuola e cemento per aggiustare il riparabile, che l'orgoglioso slogan delle tende, dalle tende alle case, non fosse poi così fuori dalla realtà, e così fino al 15 di settembre. Ivo Del Negro, allora 28enne vice sindaco di Trasaghis, stava tornando dal tabacchino della Tendopoli. Era andato a prendere le sigarette e mio padre rievoca la botta delle ore 11:21 con la più cattiva di quella monitrice dell'alba che aveva fatto scappare tutti lasciando il paese deserto. Vidi il Covri oscillare. Incredibile. Il monte barcollava come ubriaco. Venne giù tutto quello che non era crollato il 6 maggio. La natura aveva vinto. Aveva preteso che le ultime pietre avrebbe frantumato anche il coraggio dei friulani. Davanti alla prospettiva di dover ricominciare da zero, l'animo di vecchi e nuovi terremotati cominciò a vacillare, sferzato anche dal maltempo che annunciava l'inverno incombente. 70.000 senza tetto è un ulteriore dato allarmante. Da maggio erano già 20.000 i passaporti per l'espatrio rilasciati dalle questure di Udine e Pordenone, senza contare il numero incontrollato di coloro che si erano rifugiati in altre parti d'Italia. Il rischio di un abbandono irreversibile era reale. La risposta della catena operativa decisionale da Zamberletti, cui il 13 settembre il governo Andreotti rinnovò i poteri e i limiti costituzionali e giù fino ai sindaci, fu immediata, lucida, all'occorrenza creativa e inflessibile. L'esodo verso la costa, sino ad allora soltanto una sorta di piano B, diventava priorità. Mentre nelle tende sparse e nelle roulotte ne furono comprate requisite o donate 5.200, rimanevano circa 18.000 persone, contadini, allevatori in maggioranza. Per non interrompere le attività lavorative in una quindicina di giorni, vi si compì un'operazione mai vista: spostare nelle località marine, dove stava esaurendosi la stagione turistica estiva, una massa di oltre 32.000 persone da assistere, da organizzare in tutte le forme di vita comunitaria e in quelli che furono chiamati dipartimenti assistenziali. Quattro all'inizio: Lignano, Grado, Bibione e Jesolo. 6 dal 24 settembre, quando si aggiunsero Caorle e Ravascletto. Decisivo fu l'apporto di sindaci nel convincere la loro gente che non di sradicamento si trattava, ma soltanto di un ripiegamento strategico, con la saggia avvertenza di mantenere l'omogeneità paesana, addirittura di borgata, anche nella nuova destinazione, dove ogni comune impiantò una propria sede operativa, il riferimento per ogni esigenza. Tutti i servizi garantiti, da quelli sanitari, per gli anziani e i bambini soprattutto, all'organizzazione scolastica, 3.600 alunni tornarono su Libre a partire dall'11 ottobre in quasi 200 aule appositamente approntate, passando poi per i trasporti. Ogni mattina alle 6 e dintorni partivano i pullman che scaricavano nei paesi terremotati gli operai delle industrie, artigiani, commercianti e quanti sfollati volevano riagganciare le attività perdute o soltanto rivedere gli irriducibili rimasti a dare un saluto alle macerie di quella che era stata la loro casa. Alla sera il viaggio inverso, ovviamente, e le famiglie si ricomponevano in una normalità provvisoria eppure ritrovata. A Lignano, in un'oceanica assemblea al Cinema Mare di Sabbiadoro, Ivano Benvenuti dette la notizia più importante della sua carriera di sindaco del terremoto. Gemona sarebbe risolta dov'era, girava la voce. Racconta oggi che il sisma fosse soltanto l'anticipazione di altre catastrofi che avrebbero cancellato il Friuli e Gemona in particolare. E allora, con iniziativa autonoma, mandai lo storico concittadino Ercole Casolo e Faenza dal famoso sismologo Raffaele Bendandi. Perché ricorrete a me, reagì lo studioso, quando a Tricesimo avete già un esperto come Luciano Broili? Forti di quel consiglio affidammo appunto a Broili lo studio geologico del territorio, in collaborazione con l'Università di Vienna. Il responso ci rassicurò e ci dette nuova energia. Potevamo ricostruire con le dovute vertenze in questo modo, anticipando la convenzione tra Regione e Università di Trieste per l'ispezione geologica dell'intera zona terremotata, evitammo di perdere tempo mettendo subito mano ai piani di ricostruzione. L'inizio di ottobre, con la consegna dei primi prefabbricati nell'area devastata, segnò l'avvio del controesodo. Nel periodo poi più acuto, il numero delle sfollati era stato di oltre 32.000. così distribuiti: a Lignano 19.370, a Bibione 4.566, a Grado 6.486, a Jesolo 1.052. In maggioranza anziani concentrati nel villaggio Marzotto, a Ravascletto 848, Caorle 433. La generale compattezza solidale nei confronti dei terremotati presentò proprio qui nella nostra regione qualche incrinatura, quando si trattò di mettere a loro disposizione gli alloggi, di cui c'era progressiva e pressante necessità. Tanti proprietari di casa al mare lo fecero spontaneamente, avendo oltretutto la prospettiva di un indennizzo di cui si era fatto garante il commissario. Alcuni nicchiarono, altri fecero i furbi, occupando fittiziamente gli appartamenti pur di non prestarli, oppure prelevando mobili e superlettili. Altri ancora invece salirono sulla barricata del no a oltranza, il che scatenò l'indignata reazione del pacioso, ma solo in apparenza, Zamberletti, il quale il 24 settembre di quell'anno dispose la requisizione, se necessario, con l'intervento della forza pubblica degli alloggi necessari. I casi più acuti si verificarono a Grado, eppure a Ravascletto, a proposito di quali costi, scriveva il 4 ottobre inviata Betty Risalini al seguito del commissariato, l'offerta spontanea di alloggi non è mai stata proporzionale alle reali disponibilità ricettive di Grado, e nemmeno il recente decreto commissariale di requisizione ha ottenuto gli effetti sperati. Lo sblocco della situazione è impedito dalla diffusa riluttanza dei proprietari trestini, goriziani e degli stessi gradesi, e quindi annunciava: adesso si procederà alle requisizioni in forma drastica. Onde scongiurare speculazioni, il rigore fu massimo anche sul fronte dei prezzi, che un'ordinanza, quella del 17 settembre del prefetto Spaziante, inchiodava ai livelli di maggio. Al 31 marzo 1977, termine fissato per il rientro degli sfollati, lavorando giorno e notte e pure a Natale nelle zone disastrate, era stato portato a termine il 98% del programma di prefabbricazione. Sulla costa rimanevano 4.800 persone, un numero tale da non pregiudicare le attività della nuova stagione turistica. Ai lettori attenti del Messaggero Veneto non sarà sfuggita in questi mesi l'assenza di cronaca, diciamo spicciola, dai dipartimenti costieri. Fu una scelta di Meloni contro il parere di parte dei suoi giornalisti, che avrebbe voluto, attraverso nuclei mobili redazionali, documentare la quotidianità degli sfollati. No, decretò il direttore spalleggiato dal caporedattore Giampaolo Nobili, il grande mediatore. Noi continueremo a controllare, a seguire e a riferire ogni problema, ogni progresso che si verifica nei paesi. È qui che si gioca la salvezza del Friuli, non al mare. Chi sta fuori deve rafforzarsi nell'idea che può tornare, che deve tornare. E noi cronisti seguitammo dunque nelle ricognizioni, una delle quali mi riportò a Montenars. Sulla strada che conduce nel capoluogo il regno di Precheco, Placereani, dalla parte alta della Val Zimor, arrancava un vecchio a piedi, andava nella borgata di Sotcreet. Gli detti un passaggio. Insistette perché mi fermassi a pranzo. Minestrone e un bicchiere di vino serviti da sorella, anch'essa anziana, che viveva con lui. L'inverno non se n'era ancora andato, eppure in quella baracca faceva un caldo africano. Valentino Cragnolini, 75 anni, sorrise quando mi vide sudare e con le nocche picchiò sulla parete, ricavandone un suono sordo, robusto, rassicurante. «Viorito frut, bisogna saver ranghiasi», mi disse accompagnandomi fuori e mostrando la legna segata a misura che aveva accatastato tutto attorno alla baracca, aggiungendo un'altra spessa parete a prova di ogni gelo. Tutto l'inverno l'aveva passato a far legna, saziando l'insopprimibile spinta all'azione, al fare, al costruire. Aggiunse Valentino che si sentiva quasi a capolinea e che non si sarebbe più riuscito a entrare in una casa vera, ma Montenars e il Friuli ce l'avrebbero fatta rimettersi in piedi, come era sempre avvenuto. Stava scritto nella storia. Ogni tanto torno da quelle parti, anche in bici, illudendomi che gli anni e il ciuffo ingrigito siano soltanto un'opinione, e mi chiedo se il Friuli di oggi saprebbe ripetere quell'impresa prodigiosa. Non lo so. Ci vorrebbe un'occasione, non certo altre disgrazie, per carità. Un progetto, un grande disegno per metterlo alla prova, per verificare se l'aggettivo speciale non sia soltanto un cartello arrugginito che pende sul nome della nostra regione. Thank you. E siamo arrivati quindi alle battute finali di questa puntata speciale di Ape. Chiedo venia per la lunga lettura che avete ascoltato. Mi piaceva e volevo insomma leggervela. Questa storia, questo alla fine articolo che lo trovate, forse oggi non più, ma sarà recuperabile ancora sicuramente, in edicola, comunque col Messaggero di oggi, che questo libro va a commemorare appunto il sisma del 76 col titolo Quando la Terra Tremò, che poi è alla fine anche un film di Luchino Visconti del 48 che poteva starci benissimo quando era uscito, anche per commemorare il ventennio invece dal terremoto del 28, appunto un altro terremoto importante, catastrofico, però uno diciamo abbastanza vicino a quello del 76, è stato quello del 1348, e quindi qualche secolo prima, documentati appunto, e di questo sicuramente ne riparleremo nella seconda parte della puntata dedicata al terremoto che avverrà appunto il 16 di settembre prossimo. Quindi intanto ci ha raggiunto Franco di Sabbia Mobili, che avevamo già chiesto appunto la concessione di qualche minuto visto la data importante. E, ciao Franco. Ciao. E tu nel 76 eri in Toscana, no? In maggio sì, in settembre ero qui. Ero a Ronchi, la sentì in pieno a Ronchi dei legionari, c'era qualche crepa nelle case ma niente di più, però ricordo che io dormivo con mio cugino che era in collegio al Paolo Diacono di Cividale, che crollò mezzo, e non so se ci furono un paio di morti mi sembra anche al convito Paolo Diacono. Il fatto sta che dormivamo insieme, ci fu la scossa alle 5 di mattina. Io dovevo ancora svegliarmi e lui era già fuori vestito. Cioè, tempo, quanto è durata la scossa? Un minuto. Prima che fosse finita la scossa, lui era già fuori vestito. Non si è anche reso conto lui di quello che ha fatto. Lui, vabbè, lui era rimasto scioccato da quella di maggio. Io invece in maggio non l'avevo sentita. E poi tutto il giorno, mi ricordo, facevamo un campanellino attaccato all'antenna della radio, sensibilissimo, per cui ogni scossettina doveva sentirla. Poi ci fu la scossa alle 11, crollò antenna, campanellino e tutto il resto. Insomma, fu abbastanza pesante. Certo, io l'ho vissuta quasi da turista, perché in realtà io non ho avuto nessunissima conseguenza, però io ricordo le reazioni di mio cugino e lì sono rimasto davvero colpito, perché evidentemente è stato uno shock molto grosso per lui, nonostante non abbia avuto danni neanche lui, però insomma. E poi ne ho parlato, ho sentito racconti, sapete, io faccio il farmacista e mi raccontava il mio presidente dell'ordine, ex presidente dell'ordine, il dottor Manganotti, che ha la farmacia in via Poscolle, che al tempo, lui nel 76, era già un dirigente dell'ordine, credo, e mi raccontava di questi chilometri e chilometri di scaffalature con tutti i farmaci, perché ovviamente anche le farmacie erano saltate insieme a tutto il resto, no? Per cui anche l'approvvigionamento dei farmaci era diventato un qualcosa di centralizzato, era stato organizzato in una maniera particolare. Lui mi parlava appunto, non vorrei sbagliare, ma tipo 40 chilometri di scaffalature, ovviamente su diversi piani, ma una quantità enorme, gigantesca, di scaffalature che dovevano ospitare i farmaci per centinaia di migliaia di persone, cioè i sfollati o comunque quelli che non potevano più disporre di una farmacia, perché la farmacia non c'era più. Ecco, appunto, da farmacista. No? Anche quello non era un problemino da poco. No, infatti. No, assolutamente. E molti, infatti, aiuti per fortuna arrivarono comunque anche da lontano. E una cosa che non è stata detta ancora stasera è che è una cosa abbastanza tipica, se ne parliamo adesso soprattutto, è che l'Austria, quando ci è venuta in soccorso, non ha potuto farlo così liberamente, perché sennò era come che in quel periodo lì era come se ci vadesse, quindi ha dovuto cambiare proprio la sua costituzione per poter venirci in soccorso. Non sapevo. Sì, l'invasione degli austriaci. Esatto. Poi la Germania, altro caso particolare, era, come dire, agli arresti domiciliari dopo, insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è stata la prima volta proprio in quell'occasione. Gli eserciti non potevano andare fuori. No, assolutamente. E quindi c'era anche il discorso dell'Austria, no? Riferimento a quello che avvenne prima, perché noi paesi confinanti, c'è stato anche il rischio della Terza Guerra Mondiale, ci sono state delle considerazioni. Sì, no, c'è anche questo da dire, ma vabbè, per parlare di questo si dovrebbe approfondire più l'argomento, anche politico, poi tra l'altro ci sono state delle tensioni, ma è poi chiaro, perché c'erano gli americani, no? Le basi, tutto il discorso legato poi anche a quello che successe dopo, no? La Seconda Guerra Mondiale, anche la Guerra Fredda, tutto insomma, ha un po' influito. E quindi abbiamo vissuto dei momenti anche comici, tra virgolette, nel senso grotteschi, esattamente, ecco, che è il limite, no? Proprio grottesco, è proprio il termine esatto, bravo. E quindi, insomma, adesso sicuramente, se dovesse capitare, intanto insomma i mezzi, le costruzioni, quindi la tecnologia è cambiata, ma anche comunque l'Europa, no? È unita, e quindi adesso qualsiasi terremoto avvenga anche nel paese più, nella regione più isolata, che ne so, della Germania o del, no? Ah beh, successo quindi, Turchia succede abbastanza spesso, esatto. Terremoti catastrofici, insomma, sono sulla faglia Ecuador, sulla faglia asiatica. Leggevo prima che nella California del Sud si aspetta un terremoto massiccio da un momento all'altro. Il big one, lo aspettano da un momento all'altro, sanno benissimo che arriverà, e ci saranno lì centinaia di migliaia di morti, si sa anche quello, perché le case probabilmente le fanno a prova di terremoto, ma ci sono ponti, ci sono costruzioni, c'è un po' di tutto. Ci sarà probabilmente magari anche uno tsunami, e lì, insomma, San Francisco per esempio sulla costa, eccetera, ma lo sanno, lo aspettano, lo chiamano The Big One, quello grosso. Ah, certo. Non sembra che sia imminente, almeno dalle quello che dicevo prima. Sono 20 anni, però sai, 20 anni, gli scongiuri. Beh, 20 anni nelle aree geologiche sono un microsecondo, va detto anche quello, l'Italia ha 4 miliardi di anni, per cui 20 anni su 4 miliardi sono nulla. Sono nulla, assolutamente. Nella vita di una persona sono qualcosa, ma nelle aree geologiche sono nulla, per cui 20 anni più, 20 meno. Bene, allora il disco di cui si, ormai l'avranno capito. L'ho già messo sul sito, scricchio lì, certo, ormai l'avranno capito. C'è stato un leitmotiv prima, no, appunto, di questo 45 giri che è uscito dopo, in occasione di questa registrazione venuta per caso, di questo appunto debitante di Tricesimo, che non ho sentito la voce. Disco. L'hai già sentito, no, questo disco qua, vero? È un disco che in molti hanno poi ascoltato in quegli anni, proprio in quell'anno, anzi. È uscito l'anno prima, e quindi parliamo del 75. Wish You Were Here, appunto, di Pink Floyd. E questa, insomma, è, cos'è, Nicky? Shine on Crazy Diamond. Una canzone dedicata appunto a Syd Barrett. E all'assenza in generale, all'assenza. E alla incomunicabilità tante volte. Diamante pazzo. E con questo quindi mi lasciamo a Franco, ci sembrava d'obbligo, insomma, dai, alla fine in qualche maniera era simpatica l'idea di voler far ascoltare a distanza di 40 anni quel disco che ha segnato un po' anche il destino di questo tizio che ha registrato questa cosa a livello anche, diciamo, mediatico, anche stato, come sentivamo prima, no? È stato intervistato, insomma. E magari ne riapprofitteremo ancora di riparlarne, chissà, nella prossima puntata che faremo su questo, sul terremoto. E quindi per il momento è tutto, l'appuntamento con Ape al solito per venerdì prossimo dalle 19 alle 21. Io vorrei lasciarvi però con una frase di Cappello, di Pierluigi Cappello, sempre presa da questo libro uscito oggi col Messaggero, ripeto ancora, Quando la terra tremò. Ma prima di leggerlo, appunto, ringrazio anche Nicky per essere stato qua questa sera e per Franco di averci concesso di aver fatto una bella chiacchierata insieme. Sì. Comunque è piacere di averti rivisto dopo secoli, vero, che tu sei ormai un latitante, no? Purtroppo sì. Ecco, purtroppo sì. Vabbè, speriamo. Insomma, voi eravate nati quando ci fu il terremoto? Io avevo 2 anni e qualche mese. 4 anni io invece, ero già più grandicello. Mi ricordo giusto una cosa che alla fine può segnare solo un bambino di 4 anni. Ti ricordi qualcosa? Sì, mi ricordo che ero in piazza, abitavo a Zoppola di Pordenone in quel periodo. E ricordo solo che ci siamo riversati tutti nella piazza, è una cosa insolita per me, avevo 4 anni, però era comunque insolito un evento. Vedere più. Beh, che altro molta gente nuda in giro per le strade, no? In pigiama, sì, certo, perché insomma in quel momento anche alle 9 di sera qualcuno anche stava facendo all'amore, no? No, beh, anche all'amore, diciamolo. E quindi magari si è trovato dove anche la moglie gli ha detto: cavolo, stasera sei un terremoto. Scusate la battuta. Comunque, vabbè, sono quelle scene che diventano anche comiche quando hai 4 anni, insomma. Ripetiamo, grottesche. Tragicomiche, ecco, esatto. Insomma, 4 anni comunque sono stati, diciamo, un'esperienza che me la ricordo ancora, ecco, dopo, nonostante la giovane età. Quindi ringrazio ancora chi ci ha telefonato, chi è intervenuto in questa trasmissione, e quindi la disponibilità da parte loro di aver dato una testimonianza viva ancora di quello che è stato uno degli eventi più disastrosi, più rappresentativi della nostra terra. E quindi finiamo con questo articolo di Cappello, che scrive così: un minuto. La storia ogni tanto si veste con i tempi che appartengono al quotidiano per plasmare le sue trasformazioni. In un minuto non riesco a fumare per intero la mia sigaretta. 20 volte tanto è il tempo che mi serve per lavarmi la mattina. In un minuto e 50 secondi riesco appena ad accendere il PC con il quale scrivo il 6 agosto 1945. Il B-29, battezzato Enola Gay, ha sganciato su Hiroshima la prima bomba atomica, scaraventando l'umanità dentro un'epoca nuova. Dallo sgancio all'esplosione ci sono voluti 43 secondi. Qui, il 6 maggio 1976, in un minuto, un mondo che c'era prima, dopo, non c'era più. Quindi vi lascio a Pink Floyd e a Franco con Sabbie Mobili e buonasera a tutti e grazie per averci ascoltato fin qua e l'appuntamento con App come al solito per venerdì prossimo. Like the sun.